provato a credere ai sogni, ai desideri che dentro ti porti. Ti sembran favole, cose di ieri, ma se ci credi diventano veri. Adesso basta, c'è troppo grigiore, in questo mondo ci vuole colore, ci vuole luce, ci vuole allegria, dai quindi sfogo alla tua fantasia. E amico, sogna, sogna ancora, per ogni stella che intreccia l'aurora, e spera e sogna, sogna ancora, e ciò che vuoi sarà la tua gloria. Lo sai che i sogni non devi comprarli, non hanno prezzo ma danno. Credi, continua e vai avanti. E amico, sogna, sogna ancora, per ogni stella che intreccia l'aurora, e spera e sogna, sogna ancora, e ciò che vuoi sarà la tua gloria. Qualcuno ti vuole fermare, non perde tempo, lascialo andare. Ha solo invidia, tu non ti arrestare. Carica il turbo, comincia a volare, volare, volare. E amico, sogna, sogna ancora, per ogni stella che intreccia l'aurora, e spera e sogna, sogna ancora, e ciò che vuoi sarà la tua gloria. E amico, sogna, sogna ancora, per ogni stella che intreccia l'aurora.